Uno, Nessuno e 100 Milan, una trasmissione radio che ti fa capire che è meglio lavorare in radio che andare a lavorare. Uno, Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan fino alle 10.30 dalla ridotta di Viale Monza, insieme a voi, insieme al nostro Alpino che torna in regia. A fianco a lui c'è Claudia Schiattone, che saluto con un grande Forza Milan, come lei ben capirà, insieme alla nostra redazione Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. È in arrivo anche Vestagliona Manera, insomma ci siamo davvero tutti oggi con voi. 800 24 0024 è il numero per chiamarci, sapete anche i contatti via WhatsApp, via SMS, 349 238 6666. Sapete anche che dovete scriverci mail a 100milan@radio24.it, come state facendo tantissimo raccontandoci le vostre esperienze. E allora dai Alpino, Ale, vai. Enthusiasm about the future. Devo dire che come ieri, l'altro ieri per la verità, domenica sera ha detto Conte, è giusto che i provvedimenti che lui ha annunciato possano portare a delle critiche, come ha detto anche le critiche alla stampa. Io ieri vi ho invitato a dire criticate pure la stampa, non ci sono problemi, nel sottoscritto ovviamente, criticatemi, scrivetemi. E molti mi hanno scritto, mi hanno criticato, mi hanno dato del criticone a mia volta, del brontolone, dicendo, ecco, non capisco questo atteggiamento, come se si dovesse assistere passivamente a tutte le decisioni del politico pro tempore che ci governa e non si possa dire nulla. Addirittura un ascoltatore mi ha detto che prendo ordini dal presidente designato di Confindustria Bonomi, e poi mi ha scritto altre 15 righe, mi sono fermato alla prima riga perché io quando sento questo tipo di accuse è come se mi chiamasse: pronto presidente, cosa devo dire oggi? Ho risposto all'ascoltatore: se pensi così davvero cambia canale, ti prego cambia canale, non ascoltare una persona se la ritieni così inginocchiata, pecorata a prendere ordini da chi che sia. Piegati al sistema, che non siete altro. Ecco, forse era lui che mi ha scritto, non lo so, ma non credo, perché secondo me colui che ci ha mandato questa geniale presigla lo ha fatto con intento anche vagamente ironico. Comunque ho capito una cosa nelle varie critiche, ho capito, manca totalmente l'empatia, cioè quella capacità di mettersi nei panni dell'altro. Allora, io, che non è che ho dosi spiccati di empatia, ma un pochino di empatia ce l'ho, posso dire questo: ma a me di criticare il governante pro tempore di turno perché per esempio non apre i bar, non apre i parrucchieri, non apre gli estetisti, fa rischiare di fallire 500.000 imprese, ma a me, Alessandro Milan, che sono stipendiato fin tanto che lo stipendio reggerà, ma a me che cacchio me ne frega? Io tanto lo stipendio ce l'ho, ma chi se ne frega se non riaprono i bar? Ma chi se ne frega se vanno in malore i ristoranti? Ma chi se ne frega delle centinaia di migliaia di lavoratori dello spettacolo, compreso Leonardo Manera, che non lavorano e tutti gli altri? Ma chi se ne fotte dei bar che non riaprono? Chi se ne frega delle attività che non possono tirar su la serranda e che non guadagnano una lira? Ma vadano alla fame. Ecco, potrei ragionare così. Invece, siccome mi è rimasto un pizzico di empatia, mi metto nei panni di quei due parrucchieri di Padova che ieri sono arrivati ad incatenarsi, a dire: ma noi se riapriamo a giugno, già al 18 maggio è tardi, al 25 maggio pure, ma se dobbiamo attendere fino a giugno, ma noi falliamo, cosa mangiamo nel frattempo? Ecco, banalmente un pizzico di empatia mi porta a dire questo. Dopodiché, ragazzi, ieri l'ho scritto su Facebook, quando ho letto sta roba degli affetti stabili, beh, no, non so cosa ne pensiate voi. Intanto voglio dire, chiamateci, commercianti, ristoratori, parrucchieri, estetisti, baristi, tutte le attività, artigiani, tutti coloro che non possono lavorare, NCC, quelli che lavorano nel turismo, anzi lavorano tra virgolette, non lavorano nel turismo, chiamateci 800 24 0024. Vogliamo raccogliere, più che la vostra protesta, il vostro grido di dolore, la vostra sofferenza, la vostra difficoltà. Ecco, con un pizzico di empatia, lo dico io che ho lo stipendio e quindi non ho, secondo alcuni criticoni, di che preoccuparmi, e quindi bisogna rispettare la legge. A proposito di rispettare la legge, io rispetterei anche la legge, rispetto la legge, ma vorrei da una cosa da queste norme: la chiarezza. Pretendo solo una cosa, la chiarezza. Non si capisce niente. Si può andare nelle seconde case? Inizialmente avevano detto di sì, la ministra De Micheli ha detto no, non si può, rimanere il divieto. Questa roba degli affetti stabili, io lo so che suscita tutta una serie di ironie, ma è davvero incredibile. Gli affetti stabili, i congiunti, delle terminologie, poi siamo il paese della burocrazia. I congiunti, cosa sono i congiunti? Gente che va a vedere, legali, avvocati che vanno a vedere se esistono delle definizioni da codici. Gli affetti stabili, guardate, oggi devo dire, l'ha detto in maniera totalmente precisa Matteo Renzi in un'intervista a Repubblica, tra poco la leggo, però sentiamo prima Conte, che ieri è arrivato a Milano. Vai Alpino. Si andranno a trovare le persone con cui c'è un rapporto di parentela, con cui ci sono stabili relazioni affettive e via discorrendo. Ecco, però non significa incontriamoci liberamente le case tra amici, diamoci pacche sulle spalle. Invece devo dire una cosa, che questa mancanza di chiarezza porterà proprio a questo, a liberi tutti. Laddove non c'è chiarezza, aggiungiamo anche l'italiano, che ogni tanto l'italiano come cittadino, insomma un po' il furbetto, tende a farlo. Dove stai andando? Da mio zio. Dove stai andando? Da mia mamma. Dove stai andando? Da mia nonna. Affetti stabili. Poi magari sto andando a trovare l'amico a cena. Ma cosa ci fai con un vassoio di paste? Le porto a mia nonna. Ma è diabetica. Le porto da mia nonna. E si andrà dall'affetto stabile una festa con 15 amici. Questo non deve succedere. Ma perché non succeda, basta, come dicevamo ieri con Leonardo Manera, che invece di promuovere il rigore si promuova la responsabilità delle persone. Oggi, ripeto, Matteo Renzi, devo dirlo, a questo giro è perfetto in questa analisi con Annalisa Cuzzocrea su Repubblica. Dice Renzi: bisogna uscire dalla logica burocratica dei codici Ateco e dire: ti do la regola, metti la mascherina, stai lontano un metro e poi sei libero. La libertà è il valore più grande. Non siamo in uno stato etico dove i vigili chiedono se la persona che stai per vedere è una fidanzata stabile o saltuaria. Ma saranno fatti tuoi? Ma che facciamo? Mettiamo Maria De Filippi a decidere se la relazione è stabile? Sta passando una visione paternalistica tipica di chi mantiene il consenso con una diretta Facebook a settimana, mettendo il naso nella vita della gente, producendo autocertificazioni. Nel frattempo perdiamo 10 miliardi a settimana per il blocco più duro del mondo. Devo dire, oggi sottoscrivo dalla A alla Z le parole di Matteo Renzi a Repubblica, intervistato da Annalisa Cuzzocrea. Altre volte l'ho criticato, ma a questo giro è perfetto, cioè, ma che sono gli affetti stabili? Anche Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera ovviamente si esercita in maniera ironica sul tema dei fidanzati in carica. Qualcuno ha tra gli affetti stabili anche gli ex, gli amanti, gli amici di una vita. No, gli affetti stabili. Ora, io nel farvi sentire l'altro audio di Conte, che dice: sono decisioni impopolari, ma questo governo non bada ai voti, questa mi sembra mi posso permettere una piccola bugia, qualsiasi politico bada al voto, al consenso, sentiamolo. Non è un momento questo di libera tutti, lo voglio dire chiaro. Questo governo non cerca il consenso, questo governo cerca di fare le cose giuste e continuerà a fare le cose giuste, anche se questo dovesse scontentare il gran numero dei cittadini. Dopodiché, appena qualcuno alza la voce in maniera dura, nel caso i vescovi, a dire questa cosa delle messe è intollerabile, Ale si torna indietro e dice: beh, allora adesso vedremo le messe come va. Comunque, noi siamo tutti affetti un po' dall'idea che il vicino ha l'erba più verde della nostra. Però c'è una persona che può darci e può fare lumi davvero su questo, perché il professor Luciano Gattinoni, che è un anestesista, rianimatore, è stato per anni in Italia, tra l'altro ha inventato anche una tecnica riabilitativa che magari ci spiega, quella del paziente a pancia in giù, è il primo che l'ha innovata, adesso insegna, è professore e esercita in Germania. Professor Gattinoni, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a lei. Allora, l'erba del vicino è sempre più verde, noi diciamo così, però tutti ci chiediamo come mai in Germania si riparta, come mai le aziende ripartano, in Francia riaprono le scuole. Premesso, magari sbagliano loro. Cosa fanno in Germania? Seguono i luminari, seguono gli scienziati e poi decidono? Ne seguono 500, ne seguono 5? Ci spieghi un po'. Ma guardi, innanzitutto per me parlare della Germania in generale è un po' ambizioso, no? Io vivo al centro della Germania, nella Bassa Sassonia, in una cittadina universitaria, però ho tanti colleghi e tante informazioni. In Germania mi risulta che le decisioni le prendono in 3 o 4, sia Angela Merkel e quelli che si occupano dell'equivalente, diciamo, del nostro Istituto Superiore di Sanità, è il Robert Koch Institute, il quale ha il potere decisionale sulle decisioni. L'impressione che ho io in Germania è che ci sono molto, molto meno annunci e si fanno di più le cose. E tutti si chiedono perché in Germania muoiono, abbiamo un minore, c'è stato un minore impatto del coronavirus rispetto all'Italia. Io l'ho già detto, ma credo che questo qua sia l'esempio più chiaro. In Germania da 2 o 3 mesi fa, da più di 2 mesi fa, davanti a un ospedale, qui c'era un bel cartello con scritto: se arrivi che hai la tosse, hai il raffreddore, hai la febbre, non azzardarti a mettere piede in ospedale, no? E non era ancora scoppiata, l'epidemia. Era proprio all'inizio, sì. C'era già in Cina, eccetera. Si schiacciava un campanello, qualcuno si prendeva cura di te, si visitava, eccetera, dopodiché ti rimandava a casa, ma questo qua non sarebbe nulla di speciale, ma contemporaneamente telefonava al medico di famiglia, il quale si prendeva in carico il paziente, lo seguiva e poi a seconda delle condizioni o lo teneva in casa o lo faceva ricoverare all'ospedale a seconda della necessità. Da noi che cosa è successo? Che se uno arrivava in ospedale con gli stessi sintomi, non c'era nessun campanello da schiacciare, entrava in ambulatorio o in attesa, nella sala d'attesa, assieme a tutti gli altri. Contagiava gli altri, contagiava i medici, per cui abbiamo questa esplosione. Perché quello che si dimentica, quel che questo vive, la letalità di questo virus, cioè la capacità di uccidere di questo virus, è sicuramente non trascurabile, ma siamo sempre nell'ordine fra l'1 e diciamo al massimo 2%, per quanto si legge. Quello sulla letalità, cioè quante volte porta alla morte. Quanto uccide? Nel 99% dei casi, diciamo, non uccide. Quello che però è pericolosissimo di questo virus è la sua elevata contagiosità, che passa facilissimamente da uno all'altro. Certo. Tra l'altro lei ha fatto notare anche un punto fondamentale: quando si dice il caldo lo ucciderà, lei ieri, credo, a Libero ha detto: beh, il nostro corpo è tra i 36 e i 37 gradi e il virus lì sta benissimo, il che vuol dire che ecco. Il caldo però lì si intende che il caldo lo uccide quando ha la gocciolina che va, nel momento della trasmissione, sì. Il virus è depositato, che c'è su una maniglia e rimane lì vivo 3 ore, vivo attivo e potenzialmente attivo per 3 ore, se c'è caldo magari si rimane attivo per 2 ore e mezza o per 2 ore. Sì, questo sì. Non riesco a dire, ma il concetto di base è quello. Il concetto una è volta questo. Che, una volta che all'interno del corpo, non è che se lo bevo è caldo o bevo un gelato o mangio un gelato, certo. cambia la malattia. Però, professor Gattinoni, lei è un medico, non sta facendo considerazioni politiche quando dice il potere decisionale, però anche questo è importante, insomma, il potere decisionale. In Germania poche persone decidono. Certo, se poi dopo uno incoccia nelle persone sbagliate, le decisioni sono nefaste. Però il principio è quello, lei dice, devono essere meno persone a decidere, non di più. Ma io credo proprio di sì, quanto lei ha, ma questo qua credo in quasi tutti, parlo della medicina sostanzialmente, la medicina non è democratica, non è che se uno dice ci mettiamo in 10 a votare che questo succederà, questo buono, questo cattivo, necessariamente quello sia buono o cattivo, magari c'è uno che ha ragione e 9 che hanno torto, la scienza è una cosa diversa dalla normale relazione, quello che secondo me è sarebbe importante da vedere e non se ne parla tanto, visto che altri paesi hanno cominciato magari dopo di noi o ripartono prima, ossia come sono andate le cose negli altri paesi e perché siamo, non so se aprono le scuole in Francia, sono tutti deficienti francesi, noi siamo dei geni. No, ma è la domanda che faccio anch'io, anche se c'è un grande dibattito, perché anche in Francia dibattito. Non tutti sono d'accordo. Perfetto, certamente, ma allora a questo punto qua, l'atteggiamento scientifico, quando io non conosco quale sia la verità, non mi intasca la verità, vado a studiarla. Questo qua è semplicemente, posso considerare come un esperimento. Il gruppo A si comporta nel modo X e il gruppo B si comporta nel modo Y. E si studia quanto sono i risultati, molto serenamente. Mentre invece attendo che noi facciamo una grande discussione preliminare, quando secondo me, magari mi sbaglio, ci sono già degli elementi che potrebbero indirizzare, o perlomeno indirizzare, o dare qualche lume sulla strada più giusta, o meno sbagliata, più razionale da seguire. Per esempio, abbiamo visto quelle foto. Sì, certo, nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ha la ragione in mano, però abbiamo visto queste foto in Germania di persone che prendono il sole lungo fiumi, sono folli oppure sono semplicemente rispettano, c'è anche questo grande tema, rispettano quello che viene detto loro di rispettare. Ma lei cita la Renzi, lo so, sabato qui al supermercato di Göttingen era pieno come corso... che so io, come il corso Buenos Aires sulla vigilia di Natale, 95% avevano la mascherina, si tenevano le distanze perché uno deve entrare col suo carrellino, eccetera. Non so cosa succederà fino a 15 giorni, questo mi interesserebbe molto vedere. Io so che in questo momento, però, in rianimazione a Göttingen non ci sono mai stati più di 5-6 pazienti ricoverati. Se lei pensa agli 80, 90, 200 che abbiamo noi, ossia deve esserci qualcosa, c'è qualcosa che è drammaticamente diverso, perché il virus è lo stesso, gli umani appunto, cioè voglio dire, lei ci sta dicendo che il virus è molto contagioso, passa, c'è una bassa letalità ma passa molto in fretta da una persona all'altra, mi sta dicendo che i mercati sono pieni ma le terapie intensive sono vuote, c'è qualcosa che mi sfugge, cioè, il problema è sempre anche il ritardo della cosa, da quello che succede oggi, il contagio oggi lo vedrà tra 10 giorni. Però io dubito fortemente che che ci sarà qui un disastro, un intasamento di gente come abbiamo avuto noi, ma non dico in Italia, in Lombardia, perché se lei vede com'è in altre regioni italiane, Non sono mica stato tanto diverso dalla Germania. Sì. Sa cioè che c'è anche questa teoria, professor Gattinoni, oggi sui giornali italiani c'è, ma idee europee, cioè che in alcuni paesi siano state un po' omesse anche delle morti e dei casi, la Germania tra queste. Ci può spiegare come vengono dati i bollettini, se vengono dati, dunque, come vengono tenuti? Ma io bollettini dati come abbiamo il nostro rito delle 6 del pomeriggio. Figurarsi, grazie, sì, sera, qui non le ho visti. Lasciamo stare. Io ho detto che bisogna giocarsele all'otto quei numeri, ironicamente, allora, in maniera un po' macabra. Esatto. Dopodiché uno se ne può giocare come vuole, vengono dati in modo diverso, come vengono contati. Io non credo che ci siano delle differenze così enormi, ma tutti gli studi, i tentativi di studi che si fanno, guardando fra il numero di morti che c'erano negli ultimi 4 anni e i morti che ci sono dell'ultimo anno, quello che si chiama l'eccesso di mortalità, eccetera, alla fine dicono che l'eccesso di mortalità è abbastanza, è circa il doppio rispetto alla mortalità che abbiamo noi. Ma senza guardare questo, secondo me l'indicatore è quante persone arrivano in ospedale, rimangono ricoverate e quante finiscono in terapia intensiva. Siccome siamo sì, che circa il 10% dei ricoverati finiscono in terapia intensiva, se io ne ammetto 10, vuol dire che ne sono arrivati 100. Qual è il rapporto fra quelli che arrivano in ospedale e quelli che sono i contagiati? Questo qua è il numero, ma credo che sia un rapporto molto, molto elevato. Arrivano in ospedale molto meno rispetto ai contagiati. Però, ripeto, noi facciamo tanti discorsi, però ci sono tanti dati in giro per il mondo. Con calma, sì, con sapienza e scientificità. Vanno studiati. Le chiedo questo, professor Gattinoni. C'è un dibattito in Germania, l'ha lanciato l'ex ministro Wolfgang Schäuble, sul tema di dignità e salute. E cioè Schäuble ha detto: la dignità viene prima della salute, o comunque non può essere sottoposta alla salute, cioè quanto possiamo combattere, quanto possiamo accedere anche in termini di libertà in nome della salute, perdendo però dall'altra parte in termini di dignità della vita. Lei che è medico, che come si approccia a questo tema? Cioè bisogna intanto preservare la salute, quindi la vita a tutti i costi, anche se è una vita blindata, è una vita senza libertà di fatto. Guarda, a me è capitato già di dire che la storia bisognerebbe cominciare a studiarla in età adulta, no? Non all'elementare, la storia degli Egizi, la storia dei Romani. Ma noi abbiamo tante risposte su questo. Se pensa alla storia del nostro paese, alla storia di qualsiasi paese, quanti virgolette hanno dato la vita in nome di qualcosa? Dare la vita cosa vuol dire? È dare la salute con tutti gli interessi e compagnia. Cioè la salute non è come nessuna cosa, è il primato assoluto. Io non mi sento di rispondere a una domanda di questo genere, ma so sicuramente che non è vero che sia la morte il peggior di tutti i mali, cos'era Metastasio, se non erro. Sì. È sempre certo, detto, è nella saggezza popolare. La morte, a parte il fatto che ci passiamo tutti, fino a prova contraria, ma ci arriviamo tutti, non è sicuramente una parte del nostro percorso. Vivere bene, vivere in salute è molto importante, ovviamente. Però che questo sia il valore assoluto, ho qualche dubbio, però è una cosa che confida completamente, è la mia opinione. Sì, certo. Io nel ringraziarla, dicevamo, il professor Gattinoni è colui che quando era in Italia ha inventato o intuito, forse, non so se inventato non è la parola giusta, ha intuito che la tecnica del paziente a pancia sotto in queste situazioni è favorevole per il paziente, perché si respira meglio, la dico in maniera brutale, lei ovviamente mi corregga nei termini, no? Non è qualcosa di speciale, è la logica conseguenza di una serie di studi che sono stati fatti con la però prima di lei, prima di lei evidentemente non veniva fatto, quindi almeno un'intuizione sarà stata. Le posso dire una cosa, non voglio e non vanto me stesso, ma io le posso dire che in Italia, in Lombardia, negli ultimi 30-40 anni sull'insufficienza respiratoria acuta, quella di cui si parla, credo che abbiamo dato fra i massimi contributi al mondo in termini di comprensione e di avanzamento della conoscenza. Quindi abbiamo una tradizione che è straordinaria nel nostro paese per certo. quanto riguarda. E la posizione prona, cosiddetto pancia in giù, non è altro che la sfida conseguenza di alcune osservazioni. Se osservo in pazienti X che le densità del polmone all'attacco hanno una certa posizione in posizione supina, cambiano in posizione prona, misuro lo stress, le forze che vengono esercitate sul polmone nelle due posizioni, alla fine si conclude con un lungo percorso che poi coinvolge anche altri per il mondo, la posizione prona, qualsiasi cosa le faccia al polmone in termini di ventilazione meccanica è meno dannosa che in posizione supina. È meno dannosa. E salva nelle gravissime condizioni circa un malato su 15 sopravvive di più. E questo è stato ma questo vuol dire la scienza, studiare, vedere i risultati degli studi e poi applicarlo esatto. praticamente nelle tecniche. Ossia, professore, io di meno fare di più. Sì. Va bene, io la ringrazio molto. Luciano Gattinoni, ripeto, è adesso a Göttingen in Germania, dove esercita, insegna, anestesista, rianimatore per tanti anni in Italia, e spero che ci abbia dato, io credo di sì, sono molto soddisfatto degli elementi che ci ha dato su cui possiamo riflettere, dei paragoni Italia, Germania, poi ognuno ovviamente mantiene le proprie teorie. Andiamo così in pubblicità, 800 24 0024, tra poco c'è Leonardo Manera e poi parliamo di questa ricerca del Politecnico di Milano, quindi uno dei poli eccellenti delle università al mondo. Hanno fatto una ricerca per dire che secondo i loro studi matematici e dei contagi, delle diffusioni, si potrebbero riaprire le scuole materne elementari. È una posizione ovviamente molto interessante, anche perché è controversa rispetto alla posizione degli scienziati che hanno consigliato al governo. No, non si riapre nulla fino a settembre. Allora l'ascolteremo tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma a quali voti deve pensare Conte se non ha un partito, se non appartiene a nessun partito? Io mi fido di Conte. Spiegate per quale motivo ci sono regioni a contagio zero e non potremmo utilizzare come tester per una riapertura, non dico totale, ma più ampia, in modo di verificare lì il virus come si comporta. Non ti si può ascoltare stamani, Mila. Abbi tanta pazienza. Ti saluto. Allora, io non capisco. Ci lamentiamo perché il governo ci tratta come i bambini, quindi se si affida al nostro buonsenso non va bene, perché liberi tutti. Allora ci vogliono regole precise, le regole come si danno ai bambini. Ha ragione l'ascoltatrice sulle riaperture regionali. Non capisco, alcuni baristi, commercianti dicono: ma perché, non so, a Palermo ci sono quasi zero casi, non posso riaprire, cioè il mio bar di quartiere, la mia attività. Non si capisce. Leonardo Manera, eccolo qua. Signore, sei tu il mio pastore. Mi può mancare. C'è una messa occulta, una messa clandestina. Ma, siccome ho visto che forse le chiese avranno la possibilità di celebrare il rito, forse c'è un po' un ripensamento. Forse. E mi manca avere del pubblico davanti. Sto cercando di diventare prete rapidamente per avere del pubblico davanti. Stai facendo il corso da prete? Sì, ho trovato un libro che si chiama Prete in 5 minuti. Allora, 5 minuti, almeno in 5 giorni, dai. Cavolo. Spero almeno minuti. In questo modo di riuscire a avere del pubblico davanti, insomma. Un bigino. Sì, mi sono attrezzato. Comincia a cantare, vediamo se sai le canzoni. adesso ecco, quando finisce non le sa, sai solo il ritornello. Adesso Signore sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare. Se tu sei con me. La prima lezione di canto è passata. È passata. Adesso devo un po' decidere se diventare prete oppure se durante questa settimana trasformare i miei rapporti occasionali in affetti stabili. Questa scelta. Ieri già lo avevi detto, la famiglia. C'è oggi Riccardo Barenghi, Iena, sulla stampa, che scrive così: Ho come il terrore che settimana prossima venga a trovarmi qualche affetto stabile. Io ho ricevuto ieri parecchie proposte di trasformare così conoscenze in... Sì, uomini, donne, un po' di tutto, insomma, è capitato. Ma perché questa... la settimana prossima sarà un incubo, temo che verranno a trovarmi gli affetti stabili. Riccardo Barenghi, Iena sulla stampa. Vabbè, dai. Ringrazio rapidamente le persone che mi hanno scritto ieri dopo il nostro colloquio con l'avvocato Bernardini Lepace. Senza entrare nel merito, voglio ringraziare le persone che mi hanno scritto. Grazie. Va bene. Allora, adesso vogliamo parlare un po' di scuola. Lo facciamo con il direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e anche il responsabile scientifico dell'Osservatorio della School of Management al Politecnico di Milano. Professor Alessandro Perego, buongiorno e grazie di essere qui, professore. Allora, perché abbiamo letto questo studio che tradotto in un titolo è così: secondo uno studio del Politecnico si potrebbero riaprire materne ed elementari. Allora, ci aiuti a capire, perché capisce che il tema è molto sensibile. Capiamo bene che il tema è sensibile. In effetti il lavoro che abbiamo fatto è quello di provare a modellizzare la complessità della società in era di emergenza Covid e capire che per poter riaprire tutte le attività lavorative, come si sta iniziando a fare, è necessario guardare anche gli altri pezzi del sistema, di cui la scuola, i trasporti, la mobilità sono le due componenti fondamentali che vengono messe sotto pressione nel caso in cui si riaprono tutte le attività lavorative e si vuole che tutti i lavoratori possano poter accedere in sicurezza al luogo di lavoro e nei tempi necessari per la produzione. Nel momento in cui i lavoratori e le lavoratrici devono essere disponibili, come fanno a gestire i loro figli? Questo è un tema fondamentale. Certo. Questo è il tema essenziale su cui anche noi dibattiamo da giorni, a dire che facciamo, soprattutto quelli che hanno i bambini di 5 anni, 6 anni. Quindi prima di derubricare la scuola come una cosa infattibile, bisogna pensarci bene quali sono le alternative rispetto alla riapertura delle scuole, ancorché magari in modo sperimentale, magari in modo selettivo. Pensiamo che la scuola, cioè noi proponiamo la scuola perché la scuola è un sistema ad alta professionalità, cioè è uno dei sistemi intanto molto scalabili all'interno del paese, cioè evidentemente un sistema strutturato, è un sistema professionale che sa affrontare il tema in modo sistematico, in modo fornendo un ruolo educativo importante peraltro in questo momento per i nostri figli e facendolo con una sicurezza o con una gestione del rischio molto maggiore rispetto a qualsiasi altro tipo di contesto alternativo che si può immaginare. Ci faccia capire come siete arrivati a una conclusione, studiando immagino dei dati, sulla fattibilità di una riapertura rispettando tutte le regole delle scuole. Ma ben prima di pensare alla fattibilità bisogna domandarsi come si possa non pensare a considerare quali sono le soluzioni con riferimento al sistema della gestione delle famiglie. Dopodiché la scuola è un sistema decisamente ampio e strutturato e articolato, con spazi ampi che consentono anche una gestione in segregazione e anche con turnazioni. Ovviamente immaginiamo una riapertura della scuola che parta dall'infanzia e poi progressivamente alla primaria e forse un pochettino alla secondaria. Ovviamente la stiamo pensando fuori dal puro termine del periodo scolastico, cioè quello di fine maggio, che si estende anche successivamente. Quindi anche luglio, per esempio? Esattamente. E teniamo conto, è chiaro che la scuola ha prima di tutto una funzione educativa, ma in questo caso stiamo guardando sia alla sua funzione educativa che alla sua funzione di servizio alle famiglie. ma è proprio per la Sì. Su questo, professor Perego, sa che c'è un grande dibattito, perché adesso partiranno le critiche a dire: cosa pensate, che la scuola sia un parcheggio dei figli perché la gente vada a lavorare? Purtroppo non possiamo far finta che non ci sia anche questo aspetto. Ma è proprio per la stima che si ha verso i professori, cioè verso un contesto, verso la scuola in generale, verso un contesto che è capace di qualsiasi altro di gestire in modo professionale questa fase, in cui anche questo parcheggio dei figli ha di per sé un valore educativo fondamentale, cioè aiutare in questo momento i nostri bambini a gestire in maniera rispettosa, no, del problema, diciamo così, l'emergenza. Anche questo è un aspetto educativo fondamentale, ma chi meglio di un insieme di persone che sono appassionate di insegnare e di educare i bambini per gestire una situazione di questo genere? Quindi prima di derubricarlo, sì, bisogna pensarci molto bene. Si può pensare. Leo. Bisogna anche capire se bambini piccoli, in questo caso anche molto piccoli, sarebbero in grado di comprendere e rispettare le regole. Eh sì, sono la distanza sociale tra i bambini. Sono d'accordo, però bisogna sempre pensare a qual è l'alternativa, perché nel momento in cui milioni di lavoratori e lavoratrici vanno sul posto di lavoro, da qualche parte comunque quei bambini li devono lasciare. E quali sono le alternative? Per esempio, mi scusi professor Perego, l'alternativa è che molti dicono: ah, facciamo i buoni, i voucher, gli incentivi per le babysitter. Ragazzi, ma sapete cosa vuol dire una babysitter per un bambino di 5 anni? Cioè, non è che lo si trova dall'oggi al domani, c'è l'inserimento, bisogna vedere se la babysitter sta bene al bambino e se il bambino sta bene alla babysitter. Cioè, non è una cosa che da io giovedì, lunedì devo tornare a lavorare, giovedì trovo una babysitter che educhi mio figlio e stia bene con mio figlio, cioè a meno che il figlio venga considerato un pacco postale da appoggiare da qualche parte. Appunto, è ben più facile che ci sia l'accusa di pacco postale in questo caso che non nel caso di affidamento al sistema scolastico, che è un sistema altamente affidabile, che può partire rapidamente, che ha dei professionisti in campo. Mi sembra evidente che questa è una soluzione a molto minor rischio che qualsiasi altra che si passi per l'anticamera del cervello, e poi è scalabile, è immediatamente applicabile in modo ampio e diffuso per risolvere un problema che riguarda milioni di persone, non qualche centinaio o qualche migliaia. Chiaro, che prospettive ci sono secondo lei che i vostri consigli, i vostri studi possano essere ascoltati? Io credo pochi, perché mi sembra che la decisione politica ormai sia stata presa, no? Della chiusura fino a settembre. Penso anche che la decisione politica sia stata presa, ma il nostro studio non si concentra solo sulla scuola. Adesso ha preso la prospettiva della scuola perché chiaramente era l'aspetto che più colpiva, ma lo studio è volto a dire: attenzione che non possiamo, con un sistema così complesso, guardare solo una componente, bisogna guardare gli effetti sulle altre componenti. L'altro tema fondamentale è quello della mobilità. È chiaro che nel momento in cui portiamo tanti lavoratori dentro nelle fabbriche o negli ambienti lavorativi, questi ambienti lavorativi da tutte le parti ci dicono che potranno essere gestiti in sicurezza. Su questo sono tutti tranquilli e sereni, no? Il tema è farli arrivare all'ingresso. Sì, infatti sentivo anche questa cosa nella Mata metropolitana di Leonardo Manera, sentivo il sindaco di Milano Sala dire: da 6.000 persone ne porteremo 1.500 all'ora, credo che la cifra sia più o meno questa. Ho capito, e gli altri? Gli assembramenti saranno sulle scale per scendere, senso, probabilmente. No, ho capito, ma vuol dire che aumenteranno le corse o no, e quindi gli altri devono provvedere ad andare al lavoro in altri modi? No, il sistema della mobilità è un sistema ipervincolato, come dicono quelli che lo gestiscono, quindi non ha grande possibilità di aumentare la sua capacità se non quello di spalmare meglio i flussi. E quindi è chiaro che la riattivazione del mondo del lavoro deve essere fatta cercando di lavorare fortissimamente sugli orari del lavoro, in modo da spalmare i flussi in modo più equilibrato durante la giornata, perché il sistema del trasporto ha una capacità limitata, ma anche in molte parti della giornata in cui non è usato nella sua capacità. Beh, in questo Leonardo sarai contento, non ci saranno più gli assembramenti in metropolitana, ci hai fatto non so quanti pezzi su questa cosa, sulle gomitate, gli zaini. Leggevo che ci sarà l'incentivazione dell'uso delle piste ciclabili, per esempio, insomma, tutti gli strumenti che si possono utilizzare per evitare i famosi assembramenti. Sì, io non lo so. Questo è corretto, però bisogna anche fare i progetti con i tempi giusti per farli, se hanno una certa ambizione. Le piste ciclabili sono qualcosa che va fatto in modo professionale, in sicurezza. Non si può disegnare due righe sulla strada e chiamarla pista ciclabile. Ecco, questo è un altro aspetto importante della questione. Io temo che la soluzione all'italiana sarà: tutti prendono la macchina e il traffico quadruplica nel giro di poco tempo. Temo, infatti, perché ci sarà lavorare. Quello che non prende più i mezzi perché avrà paura, quello che teme il contagio anche se c'è il distanziamento sociale, non è fa. Poi spalmare i turni va bene, ma le scuole riapriranno sempre alla stessa ora, quindi tutti gli studenti dovranno prendere la metropolitana alla stessa ora, così come i mezzi pubblici. Cioè, non è che si può tutto spalmare, immagino. Stato con due diversi orizzonti temporali. C'è un primo orizzonte che è quello dei prossimi 3-4 mesi, diciamo fino ad agosto, che ha certe caratteristiche e riguarda sostanzialmente il non far affogare l'Italia. Il secondo, che parte da settembre in avanti, chiamiamola fase 3, se vogliamo così chiamarla, che invece ha caratteristiche diverse, perché può essere progettato con un po' di anticipo, iniziando evidentemente a fare dei progetti un po' più strutturali, perché a settembre capiterà quello che lei sta dicendo, e si inizieranno a muovere gli studenti delle scuole superiori, un po' gli studenti delle università, e insomma è lì il carico sul sistema della mobilità e il carico sugli altri sottosistemi sarà decisamente forte, maggiore che non adesso. Allora, noi intanto la ringraziamo molto, il professor Alessandro Perego del Politecnico di Milano. Caro Leonardo, qui insomma la gente ci scrive: ma non vi rendete conto, le scuole sono ad alto rischio contagio, scrive un ascoltatore. Hai visto, c'è anche le chi immagini? Scrive che siamo sacrileghi. Sei sacrilego all'inferno, no, con Don Mazzi, all'inferno con Don Mazzi. Ma no, ma dai, si scrive all'inferno. Hai con visto? Don Mazzi è una battuta. Sì, certo. Hai visto le immagini degli studenti che sono tornati a scuola in Cina? Non ho visto le immagini. Però. In fila indiana, perfettamente distanziati, anche bambini piccoli, veramente ligi alle regole. Complimenti, devo dire, in questo caso ai ragazzini cinesi. Ligi alle regole, perché secondo me, caro Alpino, se non fossero così ben distanziati e ligi alle regole, partirebbe Giuseppe da Reggio Calabria, con il nostro ascoltatore, con la razione di risposta che meritano anche i bambini piccoli in Cina che non rispettano la fila. Ci vorrebbe una bella passata di Miccio del Boe in loco. Ecco, intinto nell'aceto, capisci, Leonardo? Se non rispettano lì la fila. Va bene, dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Secondo te c'è traffico? Fai una previsione, Leo. Per me c'è sempre vento forte fra San Vittore e Caianello, un classico. Si sconsiglia il transito ai mezzi telonati e furgonati. Questo era uno dei classici della... Ciao. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939, oppure visita il sito azienda.eolo.it. 1 nessuno 100 Milan. I'll miss the playgrounds and the animals and digging up worms. De Alino, e meno male, un si voleva un uomo forte al governo. Stavolta Manera ha ragione. Se riaprono le messe, possono riaprire anche tutti gli altri spettacoli dove ci sono molte più persone che hanno bisogno di lavorare. È veramente una cosa indecente. Bello, la messa come uno spettacolo è stata. Stavolta Manera ha ragione. Come dire che dico sempre cazzate, inutile negarlo. Sì. Sì, sì, e anch'io ho notato che questo stavolta era sottolineato come tre volte in rosso. Ciao, abito in provincia di Verona. Stamattina a venire al lavoro, al traffico mi sembrava quello di prima dell'epidemia. E un altro ascoltatore dice: perché non provare ad aprire le scuole nei comuni con zero contagi, tipo Madesimo in Valtellina? Ecco, questo è per me il mistero, cioè, o meglio, il mistero. Si vuole questa idea giusta dell'Italia unita, ma non è che se riaprono a Madesimo le scuole qualcuno mette in dubbio l'unità dell'Italia, della Repubblica Italiana. Forse un po' di buonsenso porterebbe a dire, laddove non ci sono contagi, riapriamo anche il bar, riapriamo il parrucchiere, se ci sono zero contagi. Non credo che si riapra il parrucchiere a Madesimo, uno parte da Milano portando il contagio a Madesimo, no? Per andare dal parrucchiere, non credo, no? Su questo qualche dubbio ce l'avrei, sai? Dice, devo andare dal parrucchiere, vado a Madesimo. Io se avessi i capelli lo farei, non li ho. Spendi 400 euro tra benzina e tutto, per andare un pretesto per una gita a Madesimo. Va bene, sentiamo Pierpaolo dalla provincia di Rimini, vai. Ciao Milan. Eccoci. Pronto? Sì. Mi senti? Benissimo. Ciao, già che sei fortunato ad avere un cognome così, noi tutti milanisti vorremmo chiamarci come te. Altri non sono d'accordo, Claudia Schiattone regia sta svenendo per esempio, vai. Abbasso gli interisti, ascolta. Anche gli juventini, vai. Gli juventini un po' di meno, sai? Io sono atipico, comunque. Ascolta, volevo dire, in merito a questa benedetta storia degli affetti affini, stabili, come vogliamo chiamarli, no? Sì, ti faccio un esempio del mio caso. Io ho la mia donna che abita a 5 chilometri da qui, ok? È 2 mesi che non la posso vedere, perché è fuori regione, perché qui il confine Romagna-Marche è vicinissimo, lo sai, no? Tu sembra normale sta cosa? Ti sembra normale sta cosa? No, non lo so. No, ci sono tante cose non normali, che dobbiamo fare? Ah, non lo so. Pierpaolo, teniamoci forti, aggrappati alla fede milanista, anche Manera. Devi trovarti una fidanzata che abiti vicino alla tua fidanzata attuale, ma dentro la regione, a 1 chilometro da lei. Poi la devi stabilizzare, sì. E poi... No, e ma poi puoi frequentarla. Sì, ma poi il discorso che è vietato darsi le pacche sulle spalle, diceva Conte, non si può dare le pacche sulle spalle, allora cavolo ti vai a fare, no? Voglio dire, non è che puoi stare a fare l'amore a 1 metro di distanza, a meno che tu non sia Rocco, no? Voglio dire. Pierpaolo, fermati qua. L'amore a 1 metro di distanza sarebbe un bel titolo di un romanzo. Peccato che l'allusione a Rocco fa cadere un po' di poesia e andare più sul pratico. Grazie Pierpaolo della provincia di Rimini. Vai Leo, è il tuo momento. Oggi c'è una base allegra per te. Sì, vado allegra. Questi mesi di coronavirus in Italia stanno evidenziando, a mio parere, 2 categorie di persone, 2, che vanno anche al di là degli schieramenti politici, dei partiti per i quali si vota. Anch'io mi sono accorto di far parte di uno di questi 2 schieramenti, senza peraltro che l'avessi deciso prima. È stato un divenire naturale, come un bimbo che dal gattonare cerca di mettersi in piedi senza nemmeno rendersene conto. I 2 schieramenti sono quelli che io definirei A, le sentinelle da social, B, i dissidenti consenzienti. Lascio volutamente da parte quelli che trasgrediscono le regole, quelli che io una volta avevo definito gli azzardini, perché, come abbiamo avuto più volte modo di dire, in Italia quasi tutti si sono comportati secondo le norme che abbiamo appreso, soprattutto in TV. Abbiamo imparato a lavarci bene le mani da Barbara D'Urso. Abbiamo imparato da molti artisti che è molto bello stare a casa, anche a prescindere dal tipo di casa. Stare a casa è bello sempre, è un'opportunità straordinaria e ci permette tra l'altro di dedicarci non solo ai nostri figli, ma anche ai compiti dei nostri figli. Sono belle soddisfazioni, molto belle. Anch'io ho avuto la dimostrazione, dedicandomi con profitto e gastrite al cruciverbo in inglese di mio figlio e ad altri compiti. Però, in tutto questo, torno alla questione principale, le 2 categorie, sentinelle da social e dissidenti consenzienti. Le sentinelle da social non solo si comportano come dovrebbero, ma soprattutto si impegnano a fustigare gli altri, se anche lontanamente danno l'impressione di trasgredire. Sgridano i bambini che scendono nel cortile condominiale, fanno notare con solerzia le mancanze agli eventuali trasgressori, soprattutto sui social, alzano la voce per ricordare a tutti la pericolosità della pandemia. Li definirei capoclasse, senza che questo abbia un'accezione negativa. I capoclasse pronti a riferire alla maestra, o più tristemente ai social, chi sono quelli che meritano di finire dietro alla lavagna, anche se poi magari questi che trasgrediscono vanno a sgranchirsi le gambe a 210 metri da casa. Sono pronte le sentinelle da social a scagliare la prima pietra, senza che questo abbia un'accezione negativa, pronte a lapidare metaforicamente su Facebook quelli che non sono in linea con l'opinione dei virologi mainstream, senza che questo abbia, per carità, un'accezione negativa. Sono le sentinelle delle regole, e in questo probabilmente hanno anche trovato un ruolo nella vita. Poi ci sono i dissidenti consenzienti. Anche i dissidenti consenzienti rispettano le regole, però scuotendo qualche volta la testa, borbottando. Talvolta i dissidenti consenzienti si permettono di sollevare qualche obiezione, di non essere sempre d'accordo su tutto, perfino sommessamente disturbare il manovratore con qualche dubbio. Ma quando si solleva qualche obiezione, finisce inevitabilmente che qualche sentinella da social ti faccia sentire in colpa, ricordandoti, giustamente peraltro, l'eroismo di tutto il personale medico e il dramma di chi non c'è più e delle loro famiglie. Tutte cose sulle quali francamente non si può non essere d'accordo, e che anch'io condivido sinceramente. E allora anche i dissidenti consenzienti, ai quali, lo avrete capito, penso di appartenere, si ritirano in buon ordine. In fondo però non siamo cattivi, avremo solo bisogno di un buon istituto di rieducazione che, oltre a farci rispettare le regole, come già facciamo in fondo, ci facesse anche uniformare il pensiero. Forse così anch'io potrei divenire una sentinella da social e senza dubbio e senza dubbi trovare finalmente un ruolo nella società. E se non rispetti le regole, anche per te, caro Alpino, ci vuole Giuseppe da Reggio Calabria. Per ci vorrebbe una bella passata di Miccio del Boe, il logo. Così. Grazie, grazie, grazie. Uniformati. Francesco da Milano, buongiorno Francesco. Ciao Alessandro, ciao Leo. Allora, io ho una gioielleria a Milano, sono chiuso dall'11 marzo, a casa a fare la casalinga disperata, non ce la faccio più, però vado un po' controcorrente. Io sono d'accordo per la prudenza, e la prudenza veramente, come sta facendo Conte, secondo me è giusto. Perché anche dal punto di vista del business, parlo di Milano, cioè che poi che un gioielliere di Palermo possa aprire domani lo riterei giustissimo anche quello. Cioè l'Italia è in ostaggio della Lombardia praticamente, diciamo, e del Piemonte, diciamo la verità. Allora io ritengo che anche dal punto di vista del business, prima finisce la pandemia, prima apriamo. Quindi fatemi stare chiuso anche 2 settimane in più, in modo che... Avete sentito che in Germania c'è una leggera recrudescenza dei casi, forse a causa della riapertura troppo repentina. Forse, però c'è questo dibattito in Germania sul quale forse dovremmo riflettere, sull'idea di sottoporre la libertà come valore fondamentale alla salute a tutti i costi, perché la morte fa paura. È un discorso molto profondo, adesso l'ho liquidato in due decimi secondo, ma quello che Wolfgang Schäuble ha voluto lanciare è proprio questo dibattito. Ragioniamo anche su questo. Mi chiedono perché i parrucchieri per ultimi, datemi una risposta razionale, che penso perché la prossimità tra parrucchiere e cliente sia molto molto molto ovvia. Comunque, giornale radio 1, nessuno, 100 Milan. Milan, polemiche sterile, manca un mese alla chiusura. Qual è l'urgenza e l'importanza di mandare a scuola i bambini per un mese, con tutto quello che innesca, trasporti, mense e quant'altro? Boh, poi se ce lo spieghi magari ci fai una cortesia. Ma Nera, ti ci manderai un po' a studiare in Cina, a essere bello tutto precisino e al mattino svegliarsi presto soprattutto. A studiare, caro mio, guarda che è anni ormai che mi alzo presto, purtroppo. Eccola. Sono passati gli anni in cui mi alzavo. Li ha visti lì tutti belli come dei soldatini, questi bambini in Cina. Ha detto: guarda che bravi in Cina, no? Che rispettano, guarda, le distanze. Guarda, gli anni più belli della mia vita sono quando andavo a presentare e a lavorare in un locale di spogliarelli, e nel 92-93 tornavo a casa alle 5 di mattina, mi alzavo alle 2 di pomeriggio. Veramente, pensa che vita sociale. Veramente un periodo spensierato della mia vita, 1992-93, al Topazio, stupendo, Topazio 90. Stupendo. Allora, l'ascoltatrice, ma sì, ma chi se ne frega, dai, non, va bene, ma non riapriamole le scuole, non riapriamole più, ma non riapriamole neanche a settembre, mandiamo là fuori nel mondo una generazione di capre a due zampe che poi dopo ci penseranno loro, se impareranno, se non, tanto mica è importante la scuola, cara ascoltatrice, riaprire un mese, potrebbe andare avanti anche a luglio. La signora diceva per un mese in fondo cosa per cambia, diceva solo sì, che ma certo, in questo mese. Intanto per un mese e sommiamo i due mesi passati, quindi sono tre mesi, cioè in un mese uno fa qualcosa, poi ci sono gli esami, terza media, maturità, eccetera, e poi voglio dire, uno potrebbe dire riapriamo e andiamo avanti tutto giugno, per esempio, e quindi sono due mesi. Vabbè, ma per un, comunque, per un altro mese cosa vuoi che sia? Ma sì, ma chi se ne frega della scuola? È un mese, cioè, più un mese. D'altronde ho sentito anche questa proposta, perché ognuno la vede ovviamente dal proprio punto di vista. Molti, per salvare la stagione turistica, dico: perché non riapriamo le scuole ad ottobre? Ma sì, dai, voglio dire, ma sì, ma riapriamole a gennaio dell'anno prossimo. No, ma chi se ne frega della scuola? Dobbiamo salvare tutto e tutti, e quindi gli ultimi che non dobbiamo salvare sono i ragazzi, che possono rimanere delle capre, allora, senza capacità scolastica. Se io fossi nella signora che ha telefonato, io ritelefonerei, sì, per protestare e chiarire in modo così più preciso il pensiero che tu stai, signora, manipolando. Stai manipolando il pensiero della signora. A me manca anche Manuela da Milano, ti dirò, la nostra amica psicologa, che non ci chiama più. Forse hai detto qualcosa per cui l'hai offesa, caro Leonardo. Però Leonardo, ecco, tu vorrei che introducessi l'ospite che ora abbiamo con il tuo mantra sull'amore. Forza, dai. L'amore finisce sempre e comunque. Bene, questo salutiamo è. Così Giovanni Ricciardella, buongiorno, chef. Ciao, buongiorno del ristorante Cascina Vittoria di Rognano, siamo in provincia di Pavia. Questo è il mantra di Leonardo Manera: l'amore finisce sempre e comunque. Sempre e allora, comunque. Dobbiamo parlare del bambino, fatto. Ero bambino e lo seguivo dai tempi che faceva Fluoro in televisione, io morivo. Eccolo là, va bene. Allora, Giovanni Ricciardella è colui, buongiorno, che ha deciso di portare avanti, in una maniera che adesso ci spiega, i pranzi di matrimonio, perché giustamente molti avevano fissato le nozze in questo periodo e molti non vogliono rinunciare al pranzo di nozze. Come si fa? Allora, partendo dal presupposto che io in Pavia provincia sono stato il primo ad aver aperto il delivery, quindi quando è scoppiato la pandemia da coronavirus, due giorni dopo io già avevo ideato il Cascina Vittoria a casa vostra, ok? Quindi da lì poi è nato tutto, avevo degli eventi programmati. In realtà questo matrimonio si è svolto in una maniera molto semplice, perché è stato molto più organizzato di quando magari il ristorante è aperto in maniera ordinaria, perché siamo stati molto precisi con, appunto, tramite mail, file Excel. Ogni famiglia aveva una sua tipologia di menù, se c'era qualcuno che aveva delle intolleranze, menù adulti, menù bambini, e quindi l'abbiamo organizzata molto bene. Quindi si può fare, l'importante è avere dietro una bella organizzazione, anche perché gli ospiti poi devono mangiare come al ristorante tutti contemporaneamente. Certo, allora l'idea è quella di dire: facciamo tutto a livello virtuale, la cerimonia, no? La cerimonia si può fare a livello ristretto, credo, così, però poi il pranzo ve lo portiamo, cari invitati, ognuno a casa propria. Ovviamente, ecco, questa giusto. Cosa l'ho capita, non potete farlo per 150 invitati, perché no. Sarebbe un facciamo, po'... Poi, facciamo se sei invitato a 200 chilometri, non può. Non è fattibile. Non è fattibile. No, esatto. Non è fattibile. Esatto. E quindi noi organizziamo matrimoni massimo di 30-40 coperti, che già comunque è un numero in questo momento difficile da sostenere per quanto riguarda poi, come dicevi tu, le consegne a domicilio. E per quanto invece riguarda il discorso dell'organizzazione, l'organizzazione può essere fatta a volte, come dicevo, in maniera migliore, quindi gli sposi ci hanno mandato proprio delle mail dettagliate su cosa volevano appunto che accadesse. La cosa molto bella è che la bomboniera, siccome noi produciamo anche lievitati, quindi tutto l'anno panettoni, colombe, bauletti e via dicendo, era un mio mini lievitato che abbiamo consegnato appunto nel delivery ad ogni famiglia, perché sai che in questo periodo tutte le aziende erano chiuse, quindi anche la bomboniera era un problema, e io gli ho detto certo. ma non ti preoccupare, ci penso io, e abbiamo fatto questa cosa carina, abbiamo messo questa specie di bauletto, che è un lievitato dolce, che è ideale per le colazioni, le merende, ed è stato molto apprezzato. Lei sa che normalmente nei pranzi di nozze quasi tutto dopo gli antipasti non si mangia più, perché già gli antipasti sono abbondanti. È vero, ecco, voi è come vero, vi regolate su questo? Portate comunque pranzi abbondanti o date solo l'antipasto e poi, tanto sapendo che poi non si procederà? No, in realtà i miei menù sono molto studiati e soprattutto calibrati. Quindi, per esempio, mediamente adesso un menù da delivery più o meno a 8 portate, e sono tutti veramente assaggi, perché noi serviamo proprio già il packaging fa molto, perché se il packaging è grande tu devi mettere dentro molta roba, se è più contenuto riesci a fare un assaggio calibrato e pesato uguale per tutti. Quindi partiamo sicuramente con tutti i nostri lievitati, quelli salati, quindi un'apertura con un aperitivo con grissini, focaccia, che si possono strutturare in diversi modi, poi dopo due assaggini di antipasto, un bis di primi, due secondi, e alla fine diamo il dolce, ecco tutto qui. Quindi, e anche poi il beveraggio che c'è mio fratello altro, ragazzi, cari ascoltatori, cari sposi, vi costa molto meno, cioè invece che fare un bel pranzo con 100 invitati approfittatene, che tanto si fa per 20-25, il prezzo quindi è ridotto e ve la cavate, no? Non sono stato abbastanza... Sì. No, ma hai detto una cosa corretta, si risparmia, perché ovviamente non ci sono tutti quei servizi che tu dai al ristorante, perché comunque una volta che noi abbiamo lasciato il delivery a casa delle persone, sono loro poi che si autogestiscono, quindi hanno la possibilità di riscaldarsi il prodotto se in tal caso si è raffreddato, perché noi i piatti caldi li mettiamo in dei contenitori specifici dove loro, senza far nulla, lo mettono in forno, lo riscaldano e lo tirano fuori 5 minuti, per esempio, no? Mentre tutti i piatti freddi o quelli che non necessitano di temperatura a casa li mettiamo in packaging appositi, in modo tale da non rovinare. Ci teniamo anche sì che il prodotto, quando arrivi a casa, magari sia un pranzo, deve essere un pranzo di nozze, quindi insomma è un pranzo. Ma quindi voi portate quindi anche la torta di nozze. Lei sa che spesso sulle torte nuziali ci sono sopra i due pupazzi di marito e moglie, quindi sono 30 porzioni, fate 60 pupazzi? No, in realtà paradossalmente l'ultimo matrimonio che ho fatto la torta l'hanno voluta a casa solo gli sposi. Quindi in sostanza hanno egoisti, fatto una specie di taglio torta virtuale fatto su Skype, e quindi l'hanno dipende dall'esigenza. Ovviamente il dolce l'abbiamo mandato a tutti, ma la torta se la sono goduta certo. solo appunto. Certo, però il taglio della torta non si può fare, perché se uno la taglia poi come fa a partire da casa degli sposi? No, va fatta prima. Pensate a questo, una registrazione del taglio della torta. Va bene, Giovanni Ricciardella, noi ti ringraziamo, grazie ovviamente. Ci sono, dai riferimenti, così chi volesse sposarsi, magari Manera vuole sposarsi da queste parti, come vi si contatta? C'è un riferimento? Allora, intanto mi approfitto per fare una specificazione, che noi tutti i nostri prodotti li potete acquistare sul nostro shop online, sul sito internet, e questa è una cosa che ci tengo a dire. Quindi facilmente da casa, con due clic si compra il prodotto, cascinavittoria.it. E poi su Perfetto. Queste cose magari meglio contattarci prima, il nostro numero di telefono. Noi siamo proprio a ridosso di Milano, ma siamo l'ultimo paese in provincia di Pavia, quindi siamo proprio a metà tra Milano e Pavia. Ah, quindi comunque Cascina, Vittoria, Arrognano, sì, provincia sì. di Pavia, a noi piace anche insomma cercare nel nostro piccolo di aiutare alcune piccole imprese, visto che sono tutti blindati, sto litigando via chat mentre sono in onda, litigando, discutendo con la mia amica Saretta, potremmo chiamarla anche Saretta di Roma, che però è di Lecco, che è bella questa cosa, perché io litigo dicendo ma insomma queste piccole imprese, questi bar aperti, bisogna aprire, bisogna dare la possibilità di fatturare a queste persone. Allora ci piace aiutare anche delle imprese che trovano qualche modo per reggere. Oh, sai che Leonardo, ho detto le capre e subito è arrivata una protesta, cambi esempio perché le capre sono bestie intelligenti, cioè, qualunque cosa dici non puoi cioè, probabilmente telefonava da Sgarbi, da capra. Vabbè, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, non si può barattare la propria libertà con la salute degli altri. Il problema è che la mia dignità è la salute degli altri. I parrucchieri e gli estetisti tra i vari sono gli ultimi, ma perché sono inutili. Vediamo di capirci bene, andiamo in giro con i capelli grigi e tagli da schifo. Sono inutili. Vabbè, inutile, cari parrucchieri, potete fallire, morite di fame, non so, devo tradurla così, siete inutili. Quindi faccio anche, posso fare un'altra provocazione, Leonardo? Questa è una provocazione forte, però non soffermatevi sulla superficie, ragionate. Visto che la letalità, abbiamo detto, colpisce, la mortalità di questo virus colpisce soprattutto gli oltre sessantenni, no? Se ho capito bene, il 98%. Perché dobbiamo barattare la libertà di un bambino a cui neghiamo la scuola, le amicizie, la possibilità di divertirsi, quando è accertato che un bambino nel 99% dei casi, se prende questo virus, guarisce, in nome del fatto che bisogna invece tutelare chi ha 80 anni? È un dibattito, eh? Non sto dicendo adesso subito, ci sta dicendo morite vecchi, non ho detto questo, ho detto perché dobbiamo contemperare le esigenze di tutti e quindi neghiamo le esigenze dei bambini di poter vivere in sicurezza in nome del fatto che dobbiamo proteggere. Il bambino vale meno di uno di 80 anni? No, varrà uguale, però in questo momento è trattato in modo peggiore dal punto di vista della libertà. Comunque dai, ti ho sconvolto, è svenuto. No, io sono d'accordo con te, ma mi dispiace che tu sia un dissidente. Allora supportami, no, perché non lasciarmi solo di fronte a queste provocazioni, perché sennò supportami un attimo, perché dico una cosa forte, dimmi hai ragione, no, anche se non lo pensi. Mi sembrano cose assolutamente di buon senso, ma insomma, mi sembrava anche superfluo e pleonastico dirlo. Va bene, no, niente pleonastico qui, però non si può viaggiare, ma il signor Vagone noi lo abbiamo chiamato e convocato a casa tua per capire che cosa ci può raccontare. Buongiorno, sono Francesco Vagone. Voi sapete che fino a poco tempo fa avevo un'agenzia di viaggi, la Vagone Tour International, ma adesso ovviamente non possiamo più lavorare, allora ho cambiato lavoro. Mi sono inventato scienziato diplomato su Facebook, virologo. Naturalmente. Virologo diplomato su Facebook, do consigli da scienziato, consigli spiccioli, sono uno scienziato da social. Quindi oggi voglio regalare a tutti gli ascoltatori un consiglio da scienziato per abbattere il coronavirus. Allora, questo coronavirus. Esattamente, il coronavirus. Allora, questo mio consiglio unisce l'osservazione scientifica alla mia esperienza nell'agenzia Viaggi. E allora partiamo dall'osservazione scientifica. Sappiamo che il coronavirus è meno presente in alcune zone, per esempio in Australia. E allora la domanda che sorge spontaneamente è: perché in Australia ci sono meno persone con il coronavirus? Cari amici, la risposta è che in Australia ci sono i canguri, che invece in Italia non ci sono, e quindi le persone, per dare da mangiare ai canguri, devono saltellare e in questo modo riescono a schivare il coronavirus. E allora la soluzione qual è? Dottor Milan, la soluzione per evitare il coronavirus è rimbalzare. Ecco perché è importante che in queste settimane continuiamo a mangiare pasta, pizza, focacce, dolci, così quando potremo uscire di casa rimbalzeremo come delle palle, come i canguri, e riusciremo a schivare il coronavirus. Ma ci sono anche... Non c'è niente da ridere, signor Milan. Ma dai, no, ci sono anche paesi europei dove questo coronavirus è arrivato meno, per esempio la Norvegia. E allora dobbiamo chiederci come mai in Norvegia c'è meno coronavirus. La risposta è che in Norvegia sono tutti biondi, molto più che in Italia, in Francia e in Spagna. Bene, io sono a posto allora. Esatto, i capelli biondi sono normalmente più sottili, non vanno negli occhi, quindi le persone non si toccano la faccia per spostare i capelli che danno fastidio e non si contagiano con questo coronavirus. Allora quello che dobbiamo fare è semplice, dobbiamo diventare tutti biondi. Tutti biondi. E io insieme alla mia task force di esperti ho pensato a un piano in due fasi, un piano in due fasi. La prima fase è che tutti a casa ci tingiamo i capelli di biondo. La seconda fase, invece, che funziona sul lungo periodo, è fare arrivare dei pullman di donne norvegesi sull'Adriatico e chiuderle in hotel in quarantena insieme ai nostri bagnini romagnoli. Si avrà così una nuova generazione di bambini tutti biondi e quindi immuni al coronavirus. Questo è un metodo scientifico che funziona molto bene. Scientificissimo, E il consiglio del vostro scienziato diplomato su Facebook è Francesco Vagone, per evitare il coronavirus. Ha finito. Lei comunque, allora, l'ingegno di riciclarsi mi piace. Magari mi sarei riciclato, non so, in venditore di piadine, in barista, in... Mi sono riciclato per essere utile a tutti gli utenti di Facebook, diventando scienziato. Scienziato, va bene. Allora, Saretta, buongiorno Saretta, ti abbiamo chiamato, scusami, Sara? Buongiorno, Saretta. Buongiorno. Ma perché se io sono in diretta, cioè tu ti metti a litigare, a questionare via WhatsApp? Ti do dei suggerimenti per animare il dibattito. Capito, ma poi io mi infervoro e mi distraggo dalla diretta. Stavamo litigando sulla questione, insomma, delle riaperture, della riaprire o non riaprire. Leonardo, Saretta vuole tenerti in prigione. Ti fidi troppo delle persone, Alino, ti fidi troppo. Poi, ti fidi dire, troppo. Sì, riapriamo, però con le mascherine, i guanti tutti. Con calma, riapriamo, però non è che uno va al bar così adesso e ricomincia da capo. No, certo. Capito? Io lo dicevo ieri alla mia amica Federica, con la quale sto litigando. Sono anche disposta a fare un anno con la mascherina. Un anno? Ma come fa un barista? Perché mi ha detto tu vuoi andare a bere il caffè, mi ha detto Leonardo, vuoi andare a bere il caffè. Ma chi se ne frega? Ma io lo bevo in casa il caffè. Ma penso ai baristi che... Siate un po' tutti presi da questa voglia di ricominciare a fare tutto da capo, la libertà. Ma che libertà? Stai calmo con la mascherina e i guanti, stai a distanza e finché non abbiamo una soluzione vera. Capito. Per questa roba. Leonardo, metti la mascherina e i guanti. Io sto brevettando, ieri l'ho provata. Vagone, cosa dice? Allora, ieri mi sono costruito a casa mia una mascherina con una finestrella che si può alzare e abbassare per bere il caffè. Cioè, senza togliere la mascherina. Hai una finestrella alla testa della bocca. Sigaretta e caffè. L'ho provata ieri a casa. Sono un po' troppo abituata a questa roba, capito? Falla anche per soffiarti il naso. Metti anche la linguetta per soffiarti il naso. Tu scherza, ma vedrai che magari lo si farà veramente. Come quando proposi di mettere una poltrona ogni 5 occupata in teatro per lasciare il distanziamento sociale. All'inizio l'avevate presa come una butade e magari sarà così. Ma sai che invece noi, Sara, abbiamo brevettato la distanza manera, perché abbiamo scoperto che lui è 1,80 m e quindi 1,80 m è la distanza giusta, per cui la distanza maniera è quella che dobbiamo mantenere. Si fa tutto 1,80 m, ti saluti 1,80 m, più o meno a 1,80 m, la distanza droplet, è tanto, però 1,80 m, Io a me basta un metro e basta fregole di libertà, ma basta, ma cosa volete? Vabbè. Basta, basta fregole di libertà. Alpino, toglimi il preascolto, intanto saluto Saretta, ciao. Vai a lavorare, Saretta è la nostra antenna su Roma, e vai a lavorare. Vabbè, cosa fai, lavori da casa adesso? Lavoro un po' da casa e un po' in redazione, ora sono con Martina a casa e tra il pomeriggio vado in redazione. Un po' con Martina e un po' con Giletti, pensate che vita infernale. Scherzo, grandi saluti a Massimo Giletti. Ciao, ciao Saretta. E, caro Leonardo, ci dobbiamo fermare qui, credo. La sigla, mi dispiace per Enzo da Firenze. Se riusciamo, lo recuperiamo domani. Sia paziente e gentile. Tanto, come ha detto Saretta, caro Enzo da Firenze, deve stare chiuso a casa con la mascherina e i guanti, blindato per sempre. Leonardo, è il tuo momento, è il momento di lanciare l'urlo di battaglia. Affetti stabili!